Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Chiara? Sì? Senti questo rumore? Sì, sento e sono un po' impaurita, cos'è? E non capisci che cos'è? No. Va bene, ne parliamo dopo. Benvenuti e benvenute a Möbius, adesso ascoltiamo i titoli di questa puntata e poi incominciamo. L'Oceano Indiano è più basso di quasi 100 metri rispetto al mare delle coste australiane orientali. Ce lo dice GOCE, un satellite in orbita da 15 mesi. La storia sorprendente della farfalla monarca, dei contrabbandieri di lepidotteri e delle istrici bolognesi ghiotte di patate e inviate in esilio. Il mistero dei protoni sottopeso. Se la diagnosi fosse confermata, rivoluzionerebbe la fisica. Vi presento GOCE. E vi presento però anche Alberta Albertella, che ci parlerà di GOCE. È un nome buffo, strano. Che cosa vuol dire l'acronimo? Allora, GOCE vuol dire Gravity and Steady State Ocean Circulation Explorer. Che vuol dire tradotto? Che vuol dire esploratore del campo di gravità e della circolazione degli oceani. È un bel compito ed è un satellite. Alberta Albertella, allora lei in che modo c'entra con GOCE? Allora, io sono una ricercatrice del Politecnico di Milano e da sempre mi sono occupata di questo satellite, o meglio del principio di questo satellite. Attualmente lavoro per la Technische Universität di Monaco di Baviera e stiamo trattando i primi dati, i primi risultati che vengono da GOCE. Satellite. Oh, ecco, che arrivano dopo, cos'è? 14-15 mesi di orbita. Esatto. GOCE è stato lanciato a marzo del 2009 e a fine giugno è stato presentato in questo congresso che si è tenuto in Norvegia i primi risultati. I primi risultati. Allora, GOCE cosa fa? Intanto a che altezza è sulla Terra? GOCE è un satellite molto basso, che vola a circa 250 km sulla Terra. È uno dei più bassi, direi. È in assoluto il più basso perché finora solo satelliti che duravano poche settimane volavano a questa orbita. Invece la durata di GOCE è di 2 anni nominali, ma sembra che possano anche essere prolungati. Quindi è il primo in assoluto a volare così basso, così a lungo. Quando si vola bassi bisogna volare anche molto rapidamente, quindi per stare lì, per stare in orbita, e quindi a che velocità va intorno alla Terra? Dunque, vola un po' più velocemente rispetto agli altri, non sono grossissime rispetto a quelli più alti, non sono grossissime le variazioni di velocità. Quello che è particolare di questo satellite è che ha un sistema di un motore a ioni che permette il volo a questa orbita bassa, in pratica compensa quello che è l'attrito atmosferico, ce n'è poco ma sufficiente a farlo cadere sulla Terra dopo poco tempo, quindi ha un sistema molto sofisticato di un motore a ioni che con piccolissime impulsi riesce a compensare questo attrito e a mantenerlo a un'orbita così bassa. Dovremmo spiegare come funzionano i motori a ioni, ma lasciamo perdere perché dobbiamo andare su altre cose più importanti. Ecco, allora, GOCE, che cosa fa? Misura la gravità della Terra, cioè quindi la forza gravitazionale emessa dal nostro pianeta, la misura praticamente ovunque, su tutta la sua superficie. Esatto, volando in orbita intorno alla Terra riesce a coprire in maniera uniforme tutta la superficie terrestre e grazie allo strumento che porta a bordo riesce a misurare il campo gravitazionale terrestre, quindi la gravità. Poi dalle misure di variazioni di campo gravitazionale che ci dà GOCE possiamo ricavare con dei conti delle misure di distanza e quindi il livello medio dei mari superficie. E questo che utilità può avere? Allora, il prodotto principale di GOCE è quello che si chiama geoide e che è una superficie di riferimento. È una mappa praticamente. È una mappa su tutta la Terra che ci dice in pratica qual è grazie al geoide noi possiamo dire quello che sta sopra e quello che sta sotto. In pratica questa superficie che Gocce ci dà è come se fosse un ipotetico oceano che copre tutta la Terra in a riposo, in quiete, senza venti, senza correnti, senza maree. Quindi ci dà in qualche modo questo livello medio dei mari su tutta la superficie terrestre. Ma quello che vi interessa, scusi Alberta, è l'altezza dei mari? Quello che ci interessa è poter dire qual è il riferimento per l'altezza dei mari, esattamente, cioè dire che cosa è sopra e che cosa è sotto. Ma che cosa è sopra e che cosa è sotto, che cosa? Avere delle differenze tra quanto è alto il mare in India e quanto è alto il mare in Australia, per esempio? Esattamente. Ogni volta che noi introduciamo il concetto di altezza, dobbiamo dire altezza rispetto a che cosa. Quello che ci dice Gocce è questo che cosa, definisce questa superficie. Qui noi quello che dobbiamo incominciare a dire è che la gravità sulla Terra non è uniforme, perché la Terra non è una sfera perfetta, quindi c'è più massa in certe parti e ce n'è meno in altre. E quindi Gocce misura queste differenze. E quello che a voi interessa, mi sembra di capire, è l'altezza. Quando si dice, per esempio, che una montagna è alta 3.000 metri sul livello del mare, ecco, quando noi facciamo un'affermazione di questo genere, dobbiamo dire rispetto a quale mare, a quale livello. Esatto, qual è questo livello del mare? E questo è esattamente il risultato principale di questo satellite. Perché qual è il livello del mare globalmente, un unico livello del mare su tutta la Terra, ovviamente determinato con un'altissima precisione. Con un'altissima precisione che mi pare possa essere di... Il livello del mare viene determinato, questo livello del mare medio, questa superficie di riferimento viene determinata con la precisione del centimetro su... Addirittura del centimetro? Su scale di 100 chilometri questa è determinata con la precisione del centimetro. Dopodiché, nota questa superficie di riferimento, noi possiamo dire rispetto a questa superficie quanto sono alte le montagne e quindi dare l'altezza delle montagne ancora con questa precisione. Perché noi lo dicevamo nei titoli, ci sono delle differenze fortissime, cioè per esempio l'Oceano Indiano è quasi 100 metri più basso del mare che abbiamo tra Australia e Nuova Zelanda. Esatto. Le variazioni, questo mi ricollego a quello che dicevo prima, che della forma irregolare di questo geoide è tutt'altro, molto differente da una sfera, e può avere variazioni molto grandi, anche di centinaia, appunto, dei 100 metri. Il che vuol dire che quando noi diciamo che una montagna è alta X in Australia, dovremmo tener conto che ci sono anche c'è un livello del mare che è 100 metri più su di quello indiano, no? Esatto, sì. Quando viene, dobbiamo dire che è alta un X rispetto a quale superficie. Certo. Ora con Gocce noi possiamo dire dare l'altezza delle montagne tutte riferite alla stessa superficie. Perché Gocce riesce a prendere quello che potremmo dire il mare di base. Per tutta la Terra. Dopodiché qualcosa che alza il livello dei mari è anche non solo la gravità, ma sono anche le correnti? Esatto. Con Gocce noi conosciamo la parte riusciamo a dire con estrema precisione qual è la parte del mare in quiete, la parte ferma, quella che in matematica si chiama superficie equipotenziale. Dopodiché con altri tipi di satelliti che mandano un segnale radar sulla Terra e che viene riflesso, si misura quella che è la superficie reale del mare, quindi la superficie topografica. Sì. La differenza fra queste due quantità mi dice esattamente cosa del mare si sta muovendo e quindi le correnti oceaniche. Perché le correnti con il loro flusso alzano la superficie del mare? Sì, esattamente. La superficie del mare si alza di circa di una quantità molto piccola, più o meno 2 metri le variazioni sono su tutta la Terra. 2 metri. Comunque, insomma, se pensiamo a livelli appunto di 100 metri di differenza, 2 metri sono comunque una quantità significativa. Gocce starà in orbita ancora quanto allora? Allora, si pensa di tenerlo in orbita fino al 2013, quindi l'ESA ha prolungato la missione e sembra che ci sia abbastanza carburante a bordo fino al 2013. L'ESA è l'ente spaziale europeo. Ente spaziale europeo, sì. Grazie, buon lavoro e se arrivano altre notizie da Gocce, siamo qua. Grazie a voi. Siamo arrivati alla sesta uscita nella collana Sfide Matematiche, pubblicata dal Sole 24 Ore, una serie di libri che hanno alla base la matematica come strumento per giocare, per sfidare la mente nella soluzione di paradossi e trucchi in edicola. Questa settimana è il testo di Martin Gardner dal titolo Ah, ci sono paradossi stimolanti e divertenti. Gardner ci ha lasciato di recente, purtroppo qualche mese fa, dopo decenni di rubriche su temi matematici che hanno segnato letteralmente la storia della divulgazione in questo campo. La collana prosegue, attenzione, con Satana, Cantor e l'infinito. Il coautore è Raymond Smullyan, che si ritiene sia l'erede di Gardner. Dunque, Satana sapete tutti chi è, Cantor è uno dei fondatori della teoria degli insiemi. E poi ancora, dopo Smullyan, torna Martin Gardner con Esperienza, una risata, quindi testo dedicato agli enigmi. È ritornato il suono di prima, Chiara. Sì. Allora, devo dire che non è un suono un po' inquietante. Cosa ti mi ricorda molto quando da piccolini mettevamo una molletta attaccata ai raggi della bicicletta con attaccata una cartolina per fare l'effetto del motore. È qualcosa di molto diverso, è il suono che è emesso dalle ali di una farfalla che si chiama elicornio. Di una farfalla, sentiamo. Sembra un elicottero anziché una farfalla. Registrata molto abilmente, poi lo diremo, da un gruppo di ricerca che ha messo a punto dei dispositivi per riuscire a registrare tutti i rumori degli insetti. E, parliamo di farfalle. Perché bello. Avevamo appena accennato qualche puntata fa all'uscita di un libro, La battaglia delle farfalle, adesso però il suo autore è passato da Milano. E io sono andato a trovarlo. In un posto molto bello. Molto bello, e però in un giorno molto molto particolare, non molto lontano, sarà 20 giorni fa. Mi ricordo, aspetta, era un sabato ed era il giorno più caldo dell'anno, me lo ricordo. Grande coraggio sprezzante del pericolo, la casa editrice Sironi ha organizzato in questo sabato, considerato il giorno più caldo nella storia del continente europeo, ha organizzato alle ore 15 la presentazione del suo nuovo libro La battaglia delle farfalle, qui nei giardini pubblici di Milano, dove si trova la casa delle farfalle, è una serra nella quale è stato ricavato un habitat tropicale adatto ai meravigliosi lepidotteri, una serra nella quale d'inverno si suda. Cosa accadrà oggi? Sto entrando nella casa delle farfalle, che si chiama anche Oasi delle Farfalle. Vedo un bambino, oppure potrebbe essere anche un adulto prosciugato. Vediamo. In realtà, paradosso, adesso che sono dentro la casa delle farfalle c'è meno umidità qui di fuori. Incredibile. Buongiorno. Le piacciono le farfalle? Sì, bellissima. Ah no, questo è un bambino. È una farfalla notturna questa, lo sai? Non lo sapevo. Enorme. Lo sai, Chiara, che queste farfalle sono di 20-25 centimetri, quelle lì visibili, e arrivano a 30-35 centimetri di apertura alare. Delle farfalle giganti, ora capisco perché il bimbo era così stupito delle dimensioni. Certo, lui dice enorme e ha perfettamente ragione. Claudia Contaldi e Giulia Storino sono due biologhe che lavorano all'Oasi delle Farfalle. E io le ho sentite per darmi varie indicazioni appunto su questi lepidotteri presenti nell'Oasi e abbiamo incominciato a parlare di farfalle foglia. le indicava una farfalla foglia che ha le ali esterne a forma di foglia e si mimetizza perfettamente tra le foglie secche. Aprendo poi le ali si trovano due bande colorate, arancioni e gialle, quindi ha un contrasto molto netto tra le ali esterne e le interne. Qui purtroppo noi non riusciamo a avere le immagini perché siamo una radio, però posso dirvi che sono di fronte a una serie di fiori bianchi e viola, sono delle orchidee e appoggiate su queste orchidee c'è una foglia autunnale. Con quattro zampe. Però quando dico che c'è una foglia autunnale, dico che c'è una foglia autunnale, cioè è totalmente indistinguibile. Sì, totalmente. Anche l'apice inferiore delle ali è ripiegato esternamente a mo' di ricciolo per far sembrare ancora più simile alle foglie secche che si arricciano con la disidratazione. E questo meraviglioso animaletto quando sarà nato? Probabilmente mercoledì o martedì col nuovo arrivo di crisalidi. Ogni settimana arrivano circa 200 crisalidi qua da noi, poi piano piano durante l'arco della settimana si schiudono tutte. E quando ci lascerà? Beh, questa farfalla, come tutte le farfalle che abbiamo qua all'interno dell'Osi, vive circa una settimana, 10 giorni. Però la vita breve di alcune farfalle è una strategia molto importante perché l'animale compie tutto il suo ciclo in un periodo molto ristretto di tempo e in questo modo ha meno probabilità di essere preda di altri animali prima di concludere il proprio ciclo vitale. Quindi è molto importante, a noi può dispiacere, però per loro è importante. L'idea funziona. Esatto. C'è qualche farfalla notturna da qualche parte? Sì. Allora, qui in Osi abbiamo principalmente due specie di farfalle notturne, una che viene dalla Thailandia e una che è questa, che viene dal Madagascar. È una farfalla che è anche il simbolo della nostra associazione, si chiama farfalla cometa, proprio perché è gialla, con queste code che ricordano una stella cometa. E questa signora grassottelle gialla invece quanto vivrà? Leggermente di più rispetto alle diurne. Se le diurne, abbiamo detto, vivono una settimana, 10 giorni, possono dire qualche giorno in più, ma non, comunque non molto. Un'altra farfalla notturna che abbiamo? Stiamo cercando un'altra notturna, che è? Che bella, anche questa è quasi una spanna. Sì, ed è un esemplare piccolo, un individuo piccolo rispetto alla media delle dimensioni di questa farfalla, che si chiama falena cobra. Se dobbiamo parlare di dimensioni, le farfalle più grandi che quanto raggiungono? Io direi che queste sono tra le più grandi. Sì. Gli esemplari molto grandi di questa specie raggiungono i 30-35 cm di apertura alare. La cosa particolare in realtà è che dopo che si schiudono dalle crisalidi, escono dalle crisalidi, le farfalle non crescono. Nel senso, se noi le vediamo di 30 cm sono nate di 30 cm, se le vediamo di 2 cm sono nate di 2 cm. Durante l'arco della loro vita un po' non hanno tempo, ma proprio non possono fisiologicamente crescere. Questo è? Un bar delle farfalle, sono dei fiori artificiali all'interno del quale mettiamo una soluzione di acqua e zucchero che loro vanno poi lì a bere, il loro nutrimento, perché sono glucivore le farfalle. Farfalle, molto nel senso zucchero. Che mangiano zucchero e poi alcune altre invece possono mangiare succhi della frutta con questa bocca che non è come la nostra, non ha un apparato masticatore ma ha questa lunga proboscide che si chiama spiritromba e gli serve proprio per succhiare il nettare e o in questo caso acqua e zucchero che noi gli forniamo. E nel libro è detto che sono golose di banane, no? Sì. Le vedete anche lì, non le vedete perché siamo in radio, comunque si vedono, si possono vedere all'interno dell'Oasi alcune farfalle. Quello è il ristorante, non esatto, il bar. Esatto, è il ristorante. Qua c'è il bar da bere e il ristorante per mangiare. Hai capito, mangiano banane. Mi piacciono moltissimo. Sai che è una cosa che proprio non sapevo. Non lo sapevi? Però tanti animali sono ghiotti di cose dolci. Ecco, allora lasciamo un attimo in sospeso le farfalle, poi vi diremo alcune cose strane, la stranissima storia della farfalla monarca, e tu invece ci porti da altri animali che mangiano nel bolognese. Sì, animali italiani, quindi nel bolognese, bolognesi. Beh, ma bolognese, cioè, Bologna si mangia bene. Esatto, si mangia bene soprattutto una cosa che ora non ti dico ma te la faccio raccontare dal nostro ospite e parliamo di istrici, ecco. Anch'esse sono golose di cose dolci. Intanto diamo il benvenuto al dottor Nicola Canetti, buonasera dottore. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, lei è biologo e tecnico faunistico della provincia di Bologna. È stato assoldato dalla provincia per risolvere quale problema legato alle istrici? Ma è un problema che purtroppo si sta espandendo nella nostra provincia, che è quello legato alla produzione agricola delle patate, particolarmente famose anche a livello internazionale per la loro eccellente qualità, e gli istrici le danneggiano. Non sapevamo che le istrici fossero golose di patate, ma come si spiega questa cosa? Si spiega perché il loro regime alimentare è vegetariano e amano tutti i tuberi e comunque anche delle essenze vegetali che hanno dei bulbi dolci e quindi anche cose inaspettate tipo il tabacco, ecco, per dirne il una. Il tabacco? Beh, che è molto diverso dalle patate. Assolutamente sì, però a questo punto anche posso farvi un altro esempio sui bulbi degli iris, quindi cose assolutamente inaspettate che però loro sono in grado di riconoscere come ottimi elementi per la loro dieta. Quindi mangiano le patate, poi una fumatina dopo pranzo esatto. E poi gli iris per la fidanzata o il fidanzato. Ma scusi, cosa fanno? Vanno nel campo di patate, scavano, perché poi sono animali belli e robusti, tirano fuori il bulbo e se lo mangiano. Esattamente così. Ma quanti, scusi, quanti? La cosa fastidiosa per gli agricoltori è che un singolo animale è in grado di danneggiare molte patate, perché ne tira fuori una, la assaggia con due morsi, poi ne tira fuori un'altra. Non se ne finisce, le mangia un po' proprio dispettose. Sì, è un po' vizioso da questo punto di vista, sì. Senta, ci dica qualcosa in più sulle istrici, come sono fatte per chi non le avesse mai viste? Ma gli istrici sono dei roditori, vengono anche chiamate in gergo porcospino, per intenderci, ecco, che è molto diverso dal riccio. Quindi sono animali che arrivano nelle nostre zone a superare i 15 kg di peso, sono lunghi circa una settantina di centimetri e sono quegli animali che hanno quegli aculei bianchi e neri che la credenza popolare, che peraltro è errata, vuole che possano lanciare a distanza. È una leggenda. Ecco, è una leggenda che lancino gli aculei, giusto? Sì, sì, non è assolutamente vero, semplicemente li perdono perché sono l'equivalente dei nostri capelli e dei nostri peli, quindi li perdono, si trovano nei passaggi più frequentati dagli animali e quindi la gente nella credenza popolare immagina che possano essere scagliati a distanza. Ecco, quindi la provincia di Bologna l'ha chiamata per risolvere questo problema delle coltivazioni di patate. Come l'avete risolta? Allora, l'impostazione è un progetto di carattere tecnico-scientifico che ha anche degli aspetti burocratici, autorizzativi, non da poco, perché siamo andati anche a scomodare il Ministero per farci autorizzare questi interventi, dato che l'istrice è un animale particolarmente protetto. E poi abbiamo dovuto chiedere anche il parere dell'ISPRA, che è il massimo organo di consulenza tecnico-scientifica per lo Stato, le regioni e le province. A questo punto, superati diciamo i paletti burocratici, abbiamo proceduto a individuare le aziende più danneggiate e in queste aziende sono state trasferite delle trappole di cattura per questi animali che vengono posizionate nelle vicinanze dei campi coltivati. Ma fanno male? No, non fanno male. Ah, tu lo sapevi già. No, assolutamente, sono delle trappole che salvaguardano in tutti i modi il benessere dell'animale. Una finta patata gigantesca. No, senti come sono fatte. Sentiamo. No, per attirare gli animali abbiamo utilizzato e continuiamo a utilizzare il mais, quindi non si fa altro che gettare un po' di mais dentro la trappola e nelle vicinanze gli animali vengono attratti dall'odore e ci vanno dentro. Ah, è una trappola di quelle con uno sportello che si chiude? Sono due sportelli che si chiudono, è lunga 1,5 metri, per cui lo sportello e ha al suo interno una pedana basculante che fa scattare le due porte. Quindi, quindi è un meccanismo che in nessun modo danneggia l'animale, mi spiego. E loro sono ghiotte di pannocchie? Loro sono anche ghiotte di pannocchie, sì. Mangiano un po' di tutto, diciamo. Queste mangiano, Sì, ma guardate, vi posso dire questa curiosità, che c'è un'azienda che diciamo ha delle linee genetiche particolari di patate e gli istrici sono in grado di individuare quella fila di patate che per le sue caratteristiche organolettiche, è la migliore. Ma siamo nel bolognese. Dei buon gustai. Qui siamo nel bolognese. È in linea con Mebius Nicola Canetti, biologo tecnico faunistico della provincia di Bologna. Stiamo parlando delle istrici. Ecco, ma Chiara, e quando le prendono? Ecco, una volta che le catturate, che cosa fate? Le mandate in esilio? Le mandiamo in esilio, sì, nella parte più meridionale della nostra provincia, che è caratterizzata da una copertura boschiva praticamente senza soluzione di continuità. Vanno in vacanza in Appennino? Vanno in vacanza in Appennino, sì. Beh, si trasferiscono, mica che tornano. L'agricoltura è ridottissima, forse c'è qualche orto che viene danneggiato, ma quello insomma è molto più sostenibile che un danno all'agricoltura che oggi come oggi è intorno ai 50.000 euro, supera i 50.000 euro. Lì l'habitat è comunque ottimale per questi animali? Sì, sì, assolutamente. Prima di fare qualsiasi procedura operativa abbiamo fatto i sopralluoghi sia con i tecnici dell'ISPRA che anche con l'ASL di competenza, in quanto anche l'ASL deve assicurarsi che il benessere dell'animale in tutte le fasi del progetto venga sempre garantito. Questi animali che avete trasferito, poi cos'è? Continuate a monitorarli, li segnate in qualche modo? Cosa fate per sapere se si spostano, dove vanno? Certo, questi animali prima di essere liberati, e quindi vengono trasferiti dalla trappola dove sono stati catturati in una cassa di trasporto che diciamo gli esclude la vista dal mondo esterno in modo che possano restare tranquilli, però con delle feritoie per garantire il flusso d'aria all'interno. Una volta trasferiti nel punto di rilascio vengono marcati con una vernice all'acqua, quindi del tutto atossica anche se viene a contatto con la pelle, e nel caso in cui di una ricattura all'interno di una trappola di un animale colorato significherebbe che l'animale è ritornato da dove è stato catturato. È tornato a papparsi le patate che tanto gli piacevano. Il ristorante in pianura. Ma è già successo? No. Non è mai successo che un animale marcato sia stato ricatturato. Ma è passato poco tempo forse? No, questo è il terzo anno, quindi abbiamo gli elementi per pensare che gli animali che vengono trasferiti a una certa distanza non siano in grado di tornare. Scusate, mi sto immaginando le istrici punk con la cresta rossa, verde e blu. Vabbè. Ha proprio indovinato i tre dei quattro colori che ho utilizzato. Per Quindi adesso il passaggio successivo è stato un progetto sperimentale per i primi due anni, adesso funziona. Questo è il terzo anno di attività. La provincia ha passato le competenze a un suo gruppo di volontari specializzati, che sono le guardie ecologiche volontarie, i quali dovranno proseguire gli interventi di cattura e traslocazione che, attenzione, hanno la finalità di tamponare la ferita aperta, cioè un intervento di emergenza sulla coltura in atto. Diciamo che l'obiettivo finale della provincia è anche convincere il mondo agricolo a proteggersi attivamente da questi animali con per esempio delle recinzioni fisse fatte con dei criteri adatti e per le quali anche lo Stato può in alcuni casi sovvenzionare le spese. Sì. Grazie dottor Canetti, e quando ha delle storie così a lieto fine ci chiami, insomma ce le racconti. Grazie a voi e grazie a tutti. Grazie, buon lavoro. Questa delle istrici bolognesi è certamente una storia strana. Hai visto che bella storia ti ho scovato? Bellissima, non strana. Però questa che ci racconta Peter Lofer, l'autore della Battaglia delle Farfalle, il libro appunto edito da Sironi, è una storia decisamente strana, che riguarda le farfalle monarca. Qui appena accennato, nel libro è estesa maggiormente, e sentiamo cosa ci ha detto. Uno degli aspetti più appassionanti della migrazione delle farfalle monarca dalla zona orientale degli Stati Uniti fino al Messico, che provengono dal Canada meridionale e dall'America settentrionale e poi da laggiù tornano indietro, è che questa migrazione avviene con una successione di generazioni. Hanno un periodo di riproduzione in Louisiana, per esempio, un altro in Texas e un altro vicino ai Grandi Laghi, e alla fine, dopo 4 o 5 generazioni, loro raggiungono la meta finale della migrazione. Quello che a me stupisce, io sono un giornalista e non uno scienziato specializzato nello studio delle farfalle, è che gli stessi scienziati non riescono a capire come sia possibile questo tipo di migrazione. Queste farfalle raggiungono il Messico e tornano indietro, ma con un viaggio di generazioni successive. Hai capito che roba? È una storia veramente incredibile. È l'unico animale che fa questa cosa. Penso proprio di sì. Come fanno a passare la mappa di generazione in generazione? Guarda che è stranissimo. La mappa direzionale nella mappa genetica, forse. È veramente un mistero. Nel libro si parla di altre cose strane che riguardano le farfalle. Tra l'altro diciamo che Peter Loffer è un giornalista, tra l'altro un corrispondente di guerra come esperienza di base. Poi a un certo momento si è innamorato di questa vicenda delle farfalle e ha scritto questo libro che è un po' un'inchiesta con tante interviste, tante voci, affronta problemi strani, quello dei contrabbandieri. Anche problemi piuttosto seri, sì, il traffico di animali. C'è un traffico pesantissimo di farfalle che vengono vendute a 20.000 dollari ad esemplare e sono illegali, cioè sono farfalle che non dovrebbero essere prese in natura. Un'altra parte abbastanza singolare del libro è quella che riguarda il rilascio di farfalle come momento di festivo, diciamo, di allegria dentro i matrimoni, all'interno delle feste. Sai che è una moda che sta arrivando anche in Italia, temo? Esatto, sta arrivando anche qui, è molto diffusa nel centro America, matrimoni e anche funerali, che non riesco a capire come mai sia considerata la stessa cosa, ma comunque le liberano queste farfalle. Ho chiesto a Francesco Barbieri, direttore scientifico dell'Oasi delle Farfalle, di raccontarci un po' di questa cosa. Ecco, diciamo che in Nord America era almeno molto diffusa l'usanza di far volare, di liberare nell'ambiente farfalle durante matrimoni o funerali, appunto perché la farfalla, con il discorso della metamorfosi, è un po' il simbolo di un cambiamento, no? Nel bene e nel male, secondo sia un matrimonio oppure qualcos'altro. Si era diffusa questa usanza e poi è stata anche molto criticata perché c'erano molte cose alle quali bisognava fare attenzione. Ad esempio, non bisogna liberare farfalle esotiche in un ambiente perché si tratta di animali, appunto, che non appartengono a quell'ambiente, e se dovessero naturalizzarsi creerebbero, appunto, disturberebbero la fauna locale, come sappiamo, come da noi hanno fatto le nutrie oppure hanno fatto, che ne so, la zanzara tigre, ecco, tutti animali che noi abbiamo importato per vari motivi, e non deve succedere neanche per le farfalle. Che dire, liberare farfalle per un matrimonio ovviamente crea un disagio all'animale farfalla, anche perché trasportarlo ovviamente va chiuso in una bustina, perché sennò l'animale si può ferire muovendosi, e viene conservato a basse temperature. Ovviamente si parla solo di un paio di specie che possono sopportare questi viaggi, sì, quindi vovanesse del cardo oppure le farfalle monarca, che sono specie che vivono a lungo, anche perché hanno abitudini migratorie. Diciamo che ci sono due posizioni: c'è chi è contrario perché dice no, liberare farfalle nell'ambiente, primo, magari sono esotiche, secondo, le farfalle soffrono e non è giusto. Dall'altra parte ci sono invece chi ha un'opinione diversa e dice ma in realtà queste farfalle provengono da delle farm tropicali, e si tratta di un'economia ecosolidale che ha un significato sociale notevole per il terzo mondo e anche un significato ambientale nel terzo mondo, perché le butterfly farm dove allevano queste specie sono alla fine delle aziende che reintroducono piante selvatiche per allevare farfalle selvatiche. In altre parole, grazie agli allevamenti di questa farfalla nei paesi come il Costa Rica, il Nicaragua, il Suriname, eccetera, e vengono, invece di essere piantato il mais oppure i banani, vengono coltivate piante selvatiche e anche reintrodotta quindi la foresta. Quindi è un'economia, una delle uniche, onestamente, che mi venga in mente, che perché venga sfruttata, è un'economia che ha come conseguenza il riportare l'ambiente nel suo stato naturale. È una cosa con la quale ovviamente non siamo abituati, ma quindi sicuramente ha una valenza positiva, bisogna un po' considerare tutto quanto. Sì, ci sono delle contraddizioni, ma ci sono anche dei vantaggi non da poco. Sì, esatto, chi vuole fare una cosa del genere deve un attimo fare queste valutazioni. Anche in Italia c'era chi lo faceva, poi gli ambientalisti si sono messi contro questo tipo di iniziative, adesso non viene più fatto. A noi spesso richiedono farfalle per i matrimoni, e ovviamente noi come Oasi delle Farfalle qua a Milano ci occupiamo solo di farfalle esotiche, quindi in nessun caso noi permettiamo che vengano liberate farfalle che provengono, insomma, da noi. Si sta ancora discutendo, e giustamente, di tutti gli aspetti drammaticamente controversi della vicenda di Duisburg, la grande calca che ha creato una ventina di vittime. Queste situazioni di folla che improvvisamente degradano in un momento catastrofico e anche rapido, in cui si possono avere tante vittime, qui per carità sono state tantissime, ma ci sono casi in cui la cifra è stata ben più elevata. Purtroppo questi fatti continuano a riprodursi nei posti più diversi del mondo. Armando Bazzani, buonasera Bazzani. Buonasera. Del gruppo Fisica della Città, del Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna. Lei studia insieme al gruppo anche questi aspetti che riguardano i comportamenti delle grandi folle. Esattamente, noi cerchiamo di applicare quelle che sono delle metodologie della fisica, in particolare della fisica statistica, per cercare di riprodurre dei comportamenti di particelle cognitive, ovvero individui che non solo hanno interazioni fisiche, ma sono in grado di prendere delle decisioni e processare dell'informazione. Quindi è una matematica, se vogliamo, per gli automi. Da questi studi effettivamente quello che viene fuori, mi pare capire, è che la folla è un mix di singoli individui che prendono le decisioni e riescono a influire sul comportamento dei tanti, e allo stesso tempo anche la folla come insieme che finisce per condizionare il comportamento dei singoli. È un intreccio molto complesso. Esattamente, in effetti la dinamica di folla è quello che è un paradigma per la cosiddetta fisica di sistemi complessi, cioè un sistema in cui gli individui creano i movimenti collettivi, che sono quelli che noi osserviamo dall'esterno quando guardiamo una piazza, per esempio, affollata da un campanile. Ma al tempo stesso le decisioni degli individui sono determinate dagli stessi movimenti collettivi degli altri, perché noi abbiamo effetti cooperativi come l'effetto gregge, oppure quando ci sentiamo, diciamo, in una condizione di disagio cambiamo idea, torniamo indietro, facciamo delle altre cose. Quindi da un punto di vista, diciamo, della fisica, il comportamento della folla, se vogliamo, è uno degli aspetti principali che stiamo indagando per l'applicazione della fisica di sistemi complessi. Avete anche sviluppato un'equazione, sarebbe molto complesso parlarne adesso, però è tra questo sottile equilibrio tra singoli e moltitudine, è lì che può avvenire il momento, il passaggio verso una situazione che diventa ingestibile. Effettivamente quello che mette in luce questo modello, che pure è all'inizio, è che il comportamento, diciamo, di panico si svilupperebbe quando avvengono due condizioni: una folla a densità molto elevata in cui gli individui perdono la loro capacità di decidere in quanto vedono essenzialmente quello che fanno i primi vicini e quindi fanno quello che fanno gli altri, e al tempo stesso lo sviluppo di una situazione di disagio creata per esempio da un grosso affollamento, che fa sì che alcuni individui cambiano improvvisamente le loro decisioni e cercano di uscire per esempio dall'affollamento, dalla piazza, e questo innesca un meccanismo di amplificazione di queste piccole fluttuazioni che porta poi a quello che si vede, i disastri del panico, in quanto crea delle situazioni molto critiche in alcuni punti poi della geometria urbana. Spesso in queste vicende il problema è che chi coordinava le cose è stato molto al di sotto delle prestazioni. Grazie Bazzani. Grazie a voi, arrivederci. A fare cose strane non ci sono solo le farfalle e le istrici. No, decisamente. Cambiamo completamente argomento. La casa al 25 di Cromwell Street a Gloucester in Inghilterra non esiste più. Nell'ottobre del 1996 il Consiglio Comunale ordinò l'eliminazione di ogni traccia fisica della casa in cui Fred e Rosemary West negli anni 70 avevano violentato, torturato e ucciso più di 10 ragazze. Per nascondere i corpi nei tre piani della casa, Fred aveva messo a frutto la sua esperienza di muratore. I primi li aveva seppelliti sotto il pavimento del seminterrato e, una volta esaurito lo spazio, era passato al giardino. Bruce Hood dirige il Centro Studi sullo Sviluppo Cognitivo presso il Dipartimento di Psicologia Sperimentale dell'Università Inglese di Bristol. Il brano che tu hai appena letto, Chiara, è tratto dal suo libro Supersenso, tradotto e edito in Italia dal Saggiatore. Hood va in giro a fare conferenze, pensa, su temi che riguardano i comportamenti umani, e in queste conferenze fa spesso il seguente esperimento. Ha con sé una bella penna, un po' vecchia, e poi un golf con bottoni davanti, un cardigan, no? Come si dice? Tira fuori la penna e la fa girare fra il pubblico dicendo: pensate, questa penna era di Einstein, me la sono procurata a un'asta di cimeli. E crea dello stupore. Tutti se la passano di mano, a quel punto con gran curiosità, quasi addirittura, no? Con riverenza. Poi fa girare il cardigan e quando tutti l'hanno tenuto in mano ma è ancora lì fra la gente, lui dice: ecco, questo era un golf di Fred West, quello che seppelliva le ragazze nel giardino. E la gente? È orrore generale, orrore. No? Contenuto naturalmente, però con una certa paura a tenere ancora in mano il cardigan. Il tema di fondo del libro Supersenso, quegli oggetti nulla hanno a che vedere concretamente con i personaggi, se ci pensiamo, certo, no? Che li hanno posseduti, non hanno certo impressi pezzi, no, su di loro delle loro storie, che sono ben diverse fra Einstein e Fred West, però su di noi esercitano sensazioni fortissime. Reazioni psicologiche veramente diversissime. Sensazioni che ci arrivano da una nostra predisposizione a dare corpo, a rendere reale quello che di fatto non c'è, non è reale. Quindi siamo superstiziosi, oppure è vero. Anche un pochettino crediamo ai fantasmi. Tu credi ai fantasmi? Io direi di no. Diresti di no. Però sai, chi non vede... Ecco, allora, oppure ancora, vediamo, non ci crediamo ai fantasmi, ma se rimettiamo quella musica di prima... ecco Chiara, se siamo... alla sera in una casa di campagna, sei lì da sola, un certo timore, senti questa musica per radio, no? E quelli del paese vicino ci hanno detto che c'è una leggenda su certi fantasmi che ci sono nella casa, e sento uno scricchiolio come spesso succede. Secondo me il tuo supersenso ti dice che i fantasmi in qualche modo ci sono. Il libro analizza molte tesi sulla predisposizione al soprannaturale e in particolare esplora una direzione, che è quella dei bambini, di quando siamo bambini. Ci sono buoni motivi, dice l'autore Bruce Hood, per affermare che la tendenza a credere in ciò che vedo, ma anche in ciò che non vedo mai, però penso che ci sia, questa cosa nasce dall'infanzia, e lui fa vedere diversi esperimenti che dimostrerebbero questa cosa. Io invece pensavo che i bambini non fossero influenzati dalla superstizione, da queste credenze, invece forse è da lì che imparano. Sì, il bambino con naturalezza, quello che è inventato da lui è quello che è reale, o quello che gli sembra completamente reale e di fatto non lo è assolutamente, lui lo prende. Lo sacchiotto è vivo, capisci? È vero. Non è un gioco, è vero. Per lui è vivo. Okay. È vero. Ti saluto Chiara, devo parlare di protoni dimagriti. Va bene, ti lascio. Protoni sottopeso. Esatto. E allora, Barbara Gallavotti, che cos'è questa storia dei protoni che mi dimagriscono? Ciao Federico, buonasera a tutti. Sì, in effetti è un risultato un po' strano che esce dal Max Planck Institute in Germania ed è stato pubblicato su Nature, che in realtà dà delle indicazioni indirette. Però certo, se fosse vero, perché una delle interpretazioni possibili, anche se certo non la più probabile, di queste indicazioni è che i protoni abbiano una massa del 4% inferiore a quella che si pensava. Ora, se questo fosse vero, sarebbe in effetti una impensabile rivoluzione in fisica. Profonda, il 4%, pensiamo, su un uomo di 80 kg sono circa 3 kg, su un protone è abbastanza da scardinare tutto quello che sappiamo, perché il protone è sostanzialmente l'idrogeno, sono formato sostanzialmente da un protone, l'idrogeno è un atomo importantissimo, e poi tutti gli atomi hanno un cuore fatto da protoni e neutroni. Togliamo un po' di massa a uno di questi elementi e cambia radicalmente tutto. E tu cosa hai fatto? Hai chiesto lumi a? Ho provato a immaginare questo scenario impossibile con Umberto Dosselli, che è vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E gli ho chiesto perché per loro è così impensabile, perché hanno veramente tolleranza zero rispetto a cambiamenti di massa in particelle cruciali come sono i protoni. Perché sono parametri fondamentali della natura. L'universo è costruito dalle particelle e saperne tutte le loro caratteristiche è fondamentale. In questo caso parliamo proprio della particella che costruisce tutti noi, il protone, quella che pensavamo di conoscere così bene, che invece, se questo esperimento ha ragione, non è poi così ben conosciuto. Ecco, ovviamente immagino che non l'abbiano pensato con un bilancino di precisione il protone. In effetti quello che hanno fatto è più che pesarlo, gli hanno misurato il giro vita. Ah, cioè, beh, è un buon indizio però in genere. Esatto, c'è la relazione fra i due. Diciamo che hanno misurato la dimensione del raggio del protone, che non si misura con il metro nastro, ma si misura con tecniche sofisticatissime. Ricordiamoci che per esempio l'idrogeno è una molecola fatta con un nucleo che è un protone e un solo elettrone che orbita attorno. Tipicamente si usa misurare come gira questo elettrone per capire qual è la dimensione dell'oggetto attorno al quale sta orbitando il protone stesso. Questo esperimento che stiamo guardando oggi ha fatto una cosa diversa, ha scambiato l'elettrone con un muone, che è una sorta di elettrone pesante, e quindi si muove molto più vicino come orbita al protone, per avere una sorta di misura molto più precisa. E il risultato è stato sorprendente. Apparentemente il protone è, come diceva lei, il 4% più piccolo di quello che si pensava. Quindi in realtà loro hanno misurato qualcosa che è connessa con la massa del protone, non direttamente alla massa del protone. Esattamente, è la dimensione del protone. Allora, perché questo è così sconvolgente? A tutti noi una differenza di pochi per cento può sembrare irrilevante. Il fatto è che questa misura, la dimensione del raggio del protone, è collegata con l'elettrodinamica quantistica, che è la teoria che spiega l'interazione della luce con la materia. Questa teoria è pensata a essere, è stata verificata negli anni a un grado di precisione incredibile, una parte su miliardo o meglio, e la misura fatta dai colleghi adesso è in disaccordo con la teoria di parecchi ordini di grandezza. E questa è incredibile. E se è incredibile, ci sono altre possibilità? Ovviamente io sono sempre stato prudente nelle mie affermazioni. Diciamo, la prima è, se questa misura è corretta, ci troviamo davanti a un qualcosa che dobbiamo capire, che è di per sé eccitante. Ovviamente non è escluso che la misura non sia corretta, si parla sempre di misure molto difficili, l'errore sperimentale è sempre presente. Quindi la prima cosa da fare, secondo me, è che qualcun altro, in qualche altro laboratorio, rifaccia l'esperimento per verificare la correttezza del risultato. Perché insomma ogni tanto capita che risultati molto eccitanti poi in effetti siano un errore semplicemente. Sì, a me francamente viene in mente istantaneamente la fusione fredda, se posso dire. Ce la ricordiamo bene. Esatto. Come, diciamo, come fenomeno che produca energia è stata un errore di misura. È sicuramente un fenomeno interessante dal punto di vista accademico, ma non produce energia ed è il risultato sbagliato più clamoroso che mi venga in mente. Ce ne sono altri nel passato, ma questo forse li batte tutti. Grazie, Umberto Dosselli, a presto. A presto, arrivederci. La piccola tartaruga marina, la caretta entra nella rete da pesca, si impiglia e non esce più. Sono decine di migliaia ogni anno nel Mediterraneo che finiscono in questo modo, finiscono perché non se la cavano, insomma, impigliate, muoiono. L'ISMAR, l'istituto del CNR che fa ricerca sul mare, ha inventato un geniale dispositivo. Lo hanno chiamato TEDS, Turtle Exclusion Device, cioè un marchingegno che riesce a evitare l'intrappolamento delle tartarughe nelle reti. Non è banale descriverlo senza l'ausilio di immagini, però in sostanza si tratta di una tipologia di reti che presenta delle variazioni nelle maglie, ma anche una forma diversa di tutto il sacco. Variazioni nelle maglie, ovvero nei quadratini, no? Che sono la base di qualunque rete. Lavorando su questa differenziazione delle maglie, distribuita diversamente nell'ampio sacco che la rete descrive in acqua, si può fare in modo che il pesce venga a trovarsi in una porzione della rete dove le maglie sono le solite, cioè strette a sufficienza perché appunto questo pesce non possa uscire, mentre in altre zone le maglie sono tali che la caretta è in grado di liberarsene. Attenzione, qui è importante tenere presente che le tartarughe entrano nella rete non come un branco di animali, ci entrano come singoli individui, si incastrano in un punto con le pinne, non riescono più a liberarsi perché le maglie appunto sono strette. strette. I loro movimenti sono più lenti, potremmo anche dire più impacciati, molto più impacciati rispetto a quello dei pesci. I pesci invece entrano nella rete con grande irruenza e tendono a spostarsi nella zona dalla quale è poi molto difficile uscire. Le tartarughe restano impigliate quasi subito ai bordi della rete, invece se le maglie qui sono più larghe il problema pare che si risolva. Chiara, torna in studio che chiudiamo con gli insetti. Eccomi, che bella questa puntata piena di storie, un onore essere dall'inizio alla fine. E ti faccio sentire dei suoni. Va bene. Magari qualcuno è arrivato adesso di recente nella trasmissione e non lo sa che c'è un sistema per registrare i suoni degli insetti e sta dando dei risultati assolutamente affascinanti. Ad altissima definizione. Sì, c'è un filo di disturbo sul fondo, ma per esempio sentiamo un maschio e femmina di Euschistus, un insettino, un parassita lungo un centimetro che piccolo, si mangia piccolo. Un sacco di foglie, per esempio. Sentiamo. Questo era palesemente un maschio. Ma no, si sentono tutte e due. C'è il maschio e la femmina. Non so dirti chi è il maschio. Non sono ancora arrivato a questo. Vorrei farti sentire invece il coleottero del cocco, il coleottero rinoceronte. Sta camminando sul parquet? In effetti sembra che stia quasi lavando dei piatti, mettendo a posto la cucina. Magari è così, noi non lo sapremo mai. Sentiamo. Effettivamente questo è i rumori che fa, la sua voce. Cosa faceva? Questo non lo so. Non lo sapremo mai. Vabbè, molto interessante davvero. Si chiude qui questa puntata di Möbius e ci sentiamo fra 7 giorni. Buona serata a tutti e a tutte.